con Antonio Adinolfi di Videa che distribuisce il film è Una giusta causa di Mini Leder che sarà al cinema da giovedì 28 marzo 2019. Antonio, ben trovato. Grazie, grazie, buongiorno a tutti e grazie Raccontiamolo in dell'invito. poche parole. Una giusta causa, che è il titolo italiano dell'originale On the Basis of Sex, è un film, diciamo, incentrato su una figura, direi, abbastanza iconica nella cultura americana in generale, diventata proprio una cultura pop, perché è la storia di Ruth Bader Ginsburg, che forse a molti in Italia non dice tantissimo, ma negli Stati Uniti è stata una delle prime donne negli anni 50 ad entrare ad Harvard e a laurearsi in legge. Dopodiché è diventata famosa fino poi a diventare uno dei membri della Corte Suprema degli Stati Uniti, diciamo, eletta da Bill Clinton, quindi nell'epoca appunto clintoniana, ed è quella che in qualche modo ha attualizzato, cambiato il sistema della Costituzione americana rispetto ad un cavillo sulla differenza del genere sessuale, a vantaggio tra l'altro delle donne in quel caso contro gli uomini. Comunque è una delle figure più importanti nella storia contemporanea americana. E compare anche di persona nel sottofinale. Sì, esattamente, un po' come abbastanza tipico nelle storie americane tratte dalle storie vere, lei alla fine quando sale. Vabbè, non voglio svelare, ma insomma, alla fine compare ed è molto interessante. Insomma, lei è una figura di grande riferimento negli Stati Di Mini Leder cosa conosciamo? Uniti. Io in realtà molto poco, per cui l'ho scoperta su questo film e devo dire, insomma, che la storia, gli attori e la sua regia, che mi è parsa una regia molto sentita, molto, molto impegnata, molto voluta. Ecco, io credo che lei abbia voluto raccontare questa storia e questo progetto. Centrale nel film, chiaramente parlando di una questione di legalità e giustizia, è l'oratoria. Sì, questo è un elemento che secondo me si ritrova, diciamo, cioè l'arte oratoria di lei, che è impersonata, diciamolo, da una Felicity Jones molto brava, molto nel ruolo, dopo la candidatura all'Oscar del film precedente. Questo elemento oratorio, cioè, è molto presente, dicevo, sia in una fase proprio di aula di tribunale, nelle scene proprio di tribunale, ma anche un'oratoria legata al periodo dell'insegnamento di lei, quando insegna nei corsi delle università non prestigiose, ma anche quando all'inizio si presenta al grande decano di Harvard dicendo: no, io sono una donna e sono qui per studiare la giurisprudenza. Quindi questo elemento dell'arte oratoria, secondo me, fa un po' da cornice all'intera storia del film. Oh, in una situazione estremamente difficile per le donne e l'attività lavorativa, nel film scopriamo anche che erano circa più di 700 le leggi di ogni stato degli Stati Uniti che facevano differenza di genere a danno Esatto, delle donne. assolutamente sì. Io, diciamo, inviterei a una riflessione rispetto alla, come dire, alla contingenza del film. Mi rendo conto che la storia raccontata è la storia di un personaggio un po' lontano dalla nostra cultura, però credo che il film sia molto attuale, lo sia in questi anni, lo sia in questo fine settimana, lasciami dire, Federico, in cui a Verona si terrà quella sorta di 2 giorni sulla famiglia di tendenza, La come famiglia dire, medievale. esattamente, sì, ecco, io, cioè, non vorrei connotarla da un punto di vista politico, però, cioè, da un punto di vista sociale sì, e quindi sarà un congresso in difesa della famiglia tradizionale, gli antiabortisti, e quindi diciamo che questo film, un film che racconta anni 50, 60, 70 di una donna che ce l'ha fatta in quel modo, secondo me è da prendere ad esempio e da vedere un po' da controaltare rispetto alla medievalità del congresso di questo fine settimana. Sì. Però Poi dicevamo prima comunque della solidità di questo film che riesce a unire mélò e passione civile, c'è una professionale interpretazione, c'è una solida regia, c'è una buona sceneggiatura e una buona ricostruzione storica, insomma ci sono tutti gli elementi del classico cinema americano. Insomma, il film è una produzione, come dici tu, solida, un film prodotto da Lionsgate, distribuito negli Stati Uniti da Focus. È un film che veleggia insomma, intorno ai 30 milioni di dollari di box office. È un film grande, cioè, sebbene indipendente, un film, cioè, intendo non studios, Sì. ma è un film diciamo, che ha tutta una solidità e che traspare nel film, negli attori, nelle scenografie, nelle location, insomma, Sì. è un bel film da godere. In quante sale? Allora, usciremo questo giovedì, cioè il 28 marzo, in circa 200 sale. Bene. E allora ricordiamo il film Una giusta causa di Mimi Leder al cinema da giovedì 28 marzo 2019. Un saluto e un ringraziamento ad Antonio Adinolfi di Videa che lo distribuisce. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Ok, grazie a tutti, arrivederci, ciao.